programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ci avete pensato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a qual è secondo voi la notizia della settimana? Voi dovete stare tutta la settimana lì a concentrarvi su poi il succo che tirerete fuori appunto il sabato, qui a Non ci sono più le mezze stagioni, per ritornare a riguardare insieme, a commentare insieme i tanti fatti, le tante notizie anche questa settimana, tanto di quel materiale da commentare, cioè che non so neanche da dove iniziare, ma come sempre fra pochissimo vi farò un riassunto molto breve, almeno delle principali, poi naturalmente voi avete la libertà di tirare fuori le notizie che credete, basta che siano di interesse collettivo. Il numero verde, ormai lo conoscete a memoria, no? Il numero verde, io dico anche un numero ecologico, 800 24 0024. Perché ecologico? Perché è verde, e tutto ciò che è verde, diciamo, associazione mentale ecologico, e poi perché invece di disperdere il vostro tempo, le vostre idee altrove, le convogliate tutte direttamente qua, non ci sono più le mezze stagioni. Allora, cosa vogliamo dire delle notizie di questa settimana? Sono un po'... È stata un po' la settimana delle grandi rivelazioni, potremmo dire. Intanto con lo stragista di Brindisi, sembra che sia stato trovato il colpevole, anche se gli inquirenti continuano ad avere molti dubbi su quello che può essere il movente e sul fatto che effettivamente questo 68enne possa avere compiuto questa cosa ignobile da solo. Poi quello che continua a uscire sugli intrighi, diciamo così, o presunti intrighi relativi al Vaticano, alla Banca Vaticana IOR, con Gotti tedeschi che ancora parla di conti dei politici. Chiesi notizie, questa è la prima notizia oggi sul Corriere Online. Chiesi notizie, iniziò la guerra, cioè lui sta dicendo in questi giorni agli inquirenti che è stato mandato via, sapete che è stato sfiduciato qualche giorno fa dal Vaticano e quindi mandato via dallo IOR, dalla presidenza dello IOR, secondo lui perché cercava di imporre un po' di trasparenza nella Banca Vaticana, e quindi questo avrebbe preoccupato alcuni poteri forti, diciamo così, va molto di moda ultimamente questa espressione, all'interno del Vaticano. Il terremoto continua a fare paura, c'è stato anche in Romagna, poi di questa mattina la notizia è che c'è stata una scossa di 4,5 gradi nel nord-est, e c'è anche una ricerca di due ricercatori italiani, mi pare che la notizia sia di ieri, che dicevano: noi nel 2007 abbiamo pubblicato uno studio in cui dicevamo che soprattutto a Mirandola c'era il rischio di un forte terremoto. Insomma, poi come dimenticarci la crisi con Obama che dà la colpa all'Europa, l'Europa che dice non è solo colpa nostra, è anche colpa vostra, e poi dopo si telefonano, parlano Obama, Monti, Merkel, Cameron, Hollande, un po' tutti, insomma, vedremo il prossimo vertice europeo come se ne esce. E per quanto riguarda l'Italia, il caso De Gregorio, sapete, il senatore PDL coinvolto in questa vicenda di fondi pubblici legata al faccendiere La Vitola, insomma, il Senato ha negato l'arresto del senatore De Gregorio. Poi per quanto riguarda la giunta della Lombardia, invece non è stata votata la sfiducia a Formigoni, nel senso è stata votata ma non è passata la sfiducia. Le nomine Rai, sapete che ci sono nuova presidente Anna Maria Tarantola e Gubitosi che invece è il direttore generale. Anche qui insomma, pareri che se volete esprimere già ci sono sui giornali, pro e contro. Le authority, le nomine alle authority che hanno fatto non poco discutere, giustamente. La Siria che continua a essere paese di stragi e di sangue, e la comunità internazionale che fa? Ci sono Russia e Cina che dicono no, via, coinvolgiamo anche l'Iran, diciamo, ci manca solo l'Iran, diciamo, in questo contesto terrificante. E poi tennis, una buona notizia, Sara Errani e Roberta Vinci che ieri hanno vinto il Roland Garros di doppio, poi la Errani dovrà fare anche il singolare, vediamo un po', contro la Sharapova se non sbaglio, per il Roland Garros. Bene, mi pare di averne buttate lì parecchie, 800 24 0024, come sempre un rito a cui non possiamo sottrarci, io e voi. Che cos'è che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Allora, a proposito di guerra, no? dalla bomba atomica in poi, questa, anche prima naturalmente, questa continua ricerca delle varie nazioni, scienziati eccetera, a trovare nuove armi letali per combattere il nemico, no? Bombe sempre più terribili, più devastanti, sostanze anche sempre più insidiose. Ebbene, ora invece gli americani, da un po', è stato pubblicato da New Scientist, quindi una ricerca serissima, si stanno investendo in questa ricerca per creare la bomba puzzolente. Ecco, la bomba puzzolente è la bomba del futuro, non avreste mai pensato, infatti non ci sono più le mezze stagioni. Il dispositivo quindi non rientrerebbe fra le armi chimiche proibite perché non attiva, ho trovato questo escamotage, non attiva il nervo trigemino, che è quello che controlla i muscoli della faccia, della mandibola, no? Insomma, ci sarebbe questa bomba che sprigiona un fetore che combina quello delle fogne e quello della carne marcia, che potrebbe resistere. Questo sembra che sia particolarmente efficace per stanare il nemico. Insomma, rimane da capire se le bombe alla puzza potranno essere davvero efficaci nei combattimenti, ma questo non ci interessa. Si spera che ce ne siano sempre meno di combattimenti puzzolenti o meno. Ma adesso, signore e signori, è il momento di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Alessandro Cecchi Paone. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Alessandro. Come stai? Ma io piuttosto bene, tu come stai? Io sto benissimo, saluto tutti quelli che sono all'ascolto e grazie. Ma dove sei adesso? Sono a Siracusa in una giornata spettacolare di mare, di sole, oggi pomeriggio di tragedia greca al Teatro Greco. Ah, in quel senso, no, pensavo già di tragedie greche ne abbiamo abbastanza. Siracusa è una città meravigliosa. Mi chiedevo come mai non sei a Bologna, però, non perché deve essere per forza tu a Bologna, però. Ma perché dopo 8 anni, diciamo, passo volentieri ogni tanto la mano a qualche altro testimonial. C'è il Gay Pride oggi, ricordo, nazionale, sì, a Bologna, sì, no? Sì, io ho già fatto quello di Salerno, sto dando una mano a preparare quello di Palermo e Catania e di Padova, ma insomma quello di Bologna ho passato la mano a Vladimir Luxuria. Ecco, perché per chi non lo sapesse ce n'è sempre uno nazionale ufficiale quest'anno a Bologna, però poi ce ne sono tante di manifestazioni in giro per l'Italia, sì. No? Alessandro Cecchi Paone non ha bisogno di presentazioni, ma ve lo ricordo, notissimo giornalista, conduttore radiotelevisivo, docente universitario, e proprio per questo, poi tu hai una passione particolare per la scienza, la ricerca scientifica, anche la storia, Alessandro, e quindi volevo darti subito una buona notizia, posso? Dimmi, c'è magari. Ecco, è pronta la mappa del DNA della pera. Della pera? Della pera. Non mi stupisce, vuol dire che il lavoro di mappatura dei genomi sta andando avanti e può riguardare il moscino della frutta, la frutta, cioè la pera, e l'uomo. Quindi insomma la grande rivoluzione genetica che è iniziata nel 2000 grazie a Wender adesso sta dando i suoi frutti, e tra l'altro in tempi rapidissimi. Dopo 12 anni soltanto possiamo mappare l'intero genoma di organismi viventi molto complessi. Sta dando i suoi frutti nel senso la pera anche, no? Insomma, al di là dei inevitabili facili battute, la pera è un organismo complesso. Certo, quindi... ha 17 cromosomi la pera. Chi l'avrebbe detto che una pera, tu la guardi, la pera... Hai visto quante forme, quanti colori? Infatti mi pare che ci siano una quantità, 5.000 varietà di pera. No? Uno dice mangio una pera, sì, ma di quale varietà delle 5.000 famose? Insomma, ecco, volevo darti questa notizia in anteprima, mi sembra particolarmente sono importante. Sono molto felice, è un segno importante, in Italia non se ne occupa nessuno, ma la vera rivoluzione Alessandro, lì a Siracusa mi sa che il sole, i raggi solari e magari la tragedia greca imminente stanno un po' mandando via il segnale. Sentiamoti un attimo. No, io ti sento molto bene. Mi senti male? Ora ti sento, eri un po' sfuggito. Tra pochissimo abbiamo Enzo da Milano all'800 24 00 24, ma volevo chiederti, tu che sei stato anche uomo di Rai per tanto tempo, Alessandro, che ne pensi delle nuove nomine della Anna Maria Tarantola e di Gubitosi? Perché per esempio Santoro ieri il primo commento che ha fatto è, secondo me, ha detto Monti al posto del cervello a una banca, perché lei Santoro si era candidato, quindi chiaramente è rimasto male, indispettito. Però insomma io sono uno che ha lavorato in Rai cominciando in bianco e nero con un telegiornale per ragazzi 35 anni fa, quindi ne ho viste di tutti i colori, ho visto passare di tutto e di più. È evidente come segnale questo di ieri e di oggi che la Rai viene considerata in questa fase un'azienda da risanare, e quindi sono stati scelti dei manager, degli economisti, degli esperti di finanza. conseguenza. Quello che conta per tutti, e parlo a questo punto non solo da operatore radiotelevisivo, ma da cittadino, è che poi qualcuno metta mano a una riflessione profonda sulla missione della RAI. È un servizio pubblico per cui noi paghiamo. Ma sono molti anni che di servizio pubblico non se ne vede più la traccia, che la varietà delle culture, degli approcci alla realtà non viene rappresentata dalla RAI, ed è anche un fatto che c'è qualcosa di strano nel fatto che un servizio pubblico dedichi tanto tempo a produrre show, quiz, giochi, giochetti, e quindi vuol dire che adesso bisogna risanarla con questi uomini e poi capire se ha senso ancora avere un servizio pubblico radiotelevisivo e che cosa deve fare, certamente non quello che ha fatto negli ultimi 10 anni. Perché spiegava ieri Monti che li ha scelti per la nuova presidente, il nuovo direttore generale, per capacità gestionale, dice, in questo momento servono queste capacità gestionali. Ma quello che conferma quello che dico io, cioè si tratta di risanarla, poi dopodiché si tratta di capire, la vendiamo, la mettiamo sul mercato, gli diamo una nuova missione. Certamente, ripeto, un cittadino qualunque, al di là del fatto che in questo caso il cittadino Cecchi Paone faccia questo mestiere da 35 anni e quindi la conosca benissimo, deve sapere perché deve pagare. Oggi non c'è motivo per pagare la RAI dal punto di vista del servizio pubblico, fa sostanzialmente quello che fa una rete commerciale, e allora perché deve pagarla lo Stato attraverso i cittadini? Ti ricordi una volta ci fu la polemica giusta dello Stato italiano che produceva panettoni, passate di pomodoro, torroni, ecco, non aveva senso e abbiamo smesso. Si tratta di capire se ha senso che lo Stato produca con i soldi dei cittadini show, quiz e giocherelli, non è quello che secondo me deve fare la BBC italiana. Alessandro, però non stai spingendo all'evasione fiscale, diciamo, del canone, no? Non è questo. No, sto solo dicendo che presto ci devono dire perché paghiamo questo canone, oppure ci devono dire smettete di pagare il canone perché la RAI resta una televisione di intrattenimento e quindi allora si paga sul mercato, non c'è bisogno che la paghino i cittadini. Però tu, da uomo di televisione, adesso io non ti dico di rivelare delle tue idee, perché poi si sa che si rubano molto facilmente, no? Però che cosa mancherebbe secondo te nel servizio pubblico, nella TV italiana, insomma, di centrale? Innanzitutto, al contrario, c'è troppo. Non si capisce perché una televisione pubblica dello Stato, pagata dai cittadini, debba avere tutti i canali che ha. Nel senso che qui bisogna ricordarci che viviamo nel mondo, per fortuna, liberale della concorrenza, allora lo Stato non può avere tutti questi canali televisivi, radiofonici e via discorrendo. E poi ripeto, il servizio pubblico è pubblico perché privilegia l'informazione e la formazione culturale del paese, rappresentando tutte le varie istanze. In questo momento è esattamente il contrario, quindi c'è un eccesso di dimensioni e un difetto di funzioni. Nel ricordare che Alessandro Cecchi Paone è appena uscito con un libro di grande interesse, Il campione innamorato, pubblicato da Giunti, sui campioni e campionesse che hanno fatto coming out, c'è Enzo da Milano e Antonio da Genova, ne parliamo tra pochissimo perché tra poco c'è la pausa per aggiornare naturalmente anche chi ci ascolta viaggiando, però prima mi incuriosiva sapere giusto l'argomento di Enzo, poi ne parliamo dopo. Enzo, qual è il tuo argomento? Brevemente? Sì. Pronto? Sì, siamo qua. Enzo, sì, giusto, no, il tema, l'argomento era questo. Io ho 60 anni, diciamo che a gennaio sono 40 anni che lavoro. Purtroppo ne ho solo 30 con di contributi versati. Ho visto che in Francia, quando è caduto Sarkozy, Hollande sta riproponendo di esatto, ho detto la prima cosa, ho pensato, ma come mai questo? Ho pensato, sicuramente lo farò anche per i giovani, perché io trasporto medicinali per le farmacie, sicuramente mi posso mettere un giovane di fianco, fargli insegnargli il lavoro e dopodiché può farlo lui. E io magari andare in pensione, non dico col massimo 40, ma magari con 30 versato, e cioè avere degli step, in modo che i giovani effettivamente hanno questo potere. Enzo, rimani lì all'800240024, che tra pochissimo riprendiamo con te, con Alessandro Cecchi Paone e le altre ascoltatrici e ascoltatori. Dunque, si diceva con Enzo diceva al numero verde che ha apprezzato questa mossa di Hollande, novello presidente francese, il quale non è che ha eliminato la pensione a 62 anni alla quale aveva portata Sarkozy, ma ha deciso che potrebbe esserci l'opzione anche in certi casi particolari di andare in pensione a 60 anni. Enzo, tu pensavi lo farà in favore dei giovani, è vero che sarà anche una mossa elettorale perché ci sono le amministrative, però insomma è un cambiamento non enorme, ma è un aggiustamento che a molti potrebbe piacere, comunque nelle convinzioni e nel programma di Hollande. Enzo, tu saresti favorevole, mi pare di capire, insomma, vuoi andare in pensione. No, scusate, sì, uno dice, vabbè, io potrei anche, cioè, chiaramente se ci fossero degli step, no? Uno dice, se ha lavorato almeno 20 anni o 30, poi 40, se ci fossero degli step, uno può valutare, ma secondo me per i giovani è un'opportunità che dovrebbero valutare meglio. Ti ringrazio, Enzo, anche i nostri tecnici. Grazie, Enzo, anche perché effettivamente io un po' in modo naif mi chiedevo ultimamente, certo, se si va in pensione sempre più tardi, i giovani che devono entrare sul mercato di lavoro, ma quando ci entrano, diciamo, già c'è la difficoltà. Non so tu che ne pensi di quest'unica riforma per ora concreta che ha fatto il governo Monti, quella delle riforme che non è piaciuta a tanti, Alessandro Cecchi Paone. Ma guarda, io credo che siano di quelle riforme obbligate che danno il senso della funzione del governo Monti, cioè fare tutte quelle cose che i partiti bloccati dai sondaggi e dalla rincorsa del consenso del giorno dopo non hanno saputo fare né a destra né a sinistra negli ultimi 10 anni. Quindi il compito ingrato ma utilissimo di Monti è di fare quello che le forze politiche, per problemi di consenso e di errori nella gestione del rapporto con l'elettorato, non sono stati capaci e non potrebbero fare. Leggevo anche fra le notizie di oggi, ne ve ne ho date già tante, ma c'è anche questa, contatti tra Stato e mafia, sapete questa inchiesta, no? le famosi accordi, papelli eccetera eccetera, è indagato Nicola Mancino, l'ex ministro dell'interno, l'ipotesi è di reato e di falsa testimonianza. Poi c'è un'altra notizia che ti giro invece, Alessandro, prima di sentire Antonio da Genova, che è questa: Bersani ha mandato una lettera al Gay Pride di oggi a Bologna, quello nazionale, dice basta col Far West, serve una legge per le unioni civili. Gay Pride di Bologna, messaggio del leader democratico, nel programma del PD dice unioni tra omosessuali, divorzio breve, testamento biologico, cittadinanza per i figli degli immigrati in Italia. Ed è uscita pochissimo fa, in questi istanti, un'agenzia con una dichiarazione di Quagliarello del PDL che dice la lettera inviata da Bersani al Gay Pride di Bologna è un vero e proprio manifesto programmatico sui temi come coppie di fatto eccetera eccetera, in un momento nel quale la difficoltà dei tempi richiede alleanze costruite sulla roccia dei principi piuttosto che sulla sabbia della tattica contingente, aggiunge il vice capogruppo vicario del PDL al Senato. Invitiamo, dice Quagliarello, Pier Ferdinando Casini a prendere nota delle affermazioni del segretario del PD e pensarci bene prima di farsi allettare da richiami della foresta e aderire ai naturali cartelli elettorali. Quindi qui, no, da una parte Bersani che improvvisamente si sveglia stamattina, mi fa piacere che abbia preso delle decisioni almeno su certi punti, no? Perché c'è sempre stata un po' di ambiguità. E poi c'è Quagliarello che però dice di nuovo, fa la sirena verso Casini, dice vieni da noi, no? Che se lo contendono PD, PDL, così. Che pensi di tutto ciò, Alessandro? Allora, tu hai già anticipato che sembra un sogno di occhi aperti che il centrosinistra italiano si sia ricordato che in tutto il mondo il centrosinistra è all'avanguardia nelle lotte per le libertà civili. Persino la destra in alcuni paesi, persino la destra. Sì, per questo ti dico che è assurdo che in Italia neanche la sinistra, in maniera esplicita, certo, e non ambigua, come tu hai detto. Quindi sembrerebbe un improvviso risveglio di cui siamo tutti felici. Vediamo se poi è vero, perché dovrà fare i conti con la componente cattolica interna al PD. Mi dispiace che Quagliariello, che molti non sanno è un ex radicale convertito sulla via di Damasco, strumentalizzi ancora una volta la vita delle persone per convincere Casini ad andare a destra e a sinistra. Questa è la tragedia della politica italiana, cioè lui ha il problema di chi si allea Casini per far vincere la destra e la sinistra alle prossime elezioni. Ma cosa c'entra con la felicità di una coppia che oggi non ha nessun riconoscimento? Cosa c'entra con una persona che non vuole morire fratoci tormenti? Cosa c'entra una coppia che non riesce ad avere un figlio e non può averlo con questa legge 40? Sono cose che i politici devono imparare, rispettare appunto i principi di fondo che sono il rispetto dei sentimenti, della vita quotidiana, della nascita e della morte, che non hanno nulla a che fare con le contingenze elettorali o politiche. Se non si capisce questo non ci si riesce neanche a rispettare e a trovare poi dei punti d'incontro che nel passato laici e cattolici hanno trovato, proprio conoscendo la differenza fra la politica e il politicante e i grandi principi delle libertà individuali e dei valori che ognuno deve avere, lasciando però agli altri il rispetto di quelli diversi. Sono assolutamente d'accordo. Il campione innamorato è il libro di Alessandro Cecchi Paone, Giochi proibiti dello sport, con tante storie di famosi campioni e campionesse appunto nella storia dello sport e della loro omosessualità. È un bellissimo libro, tra l'altro, con la prefazione di Cesare Prandelli, che forse è l'unico tecnico del calcio, allenatore che è venuto fuori in modo piuttosto aperto ultimamente a dire ditelo pure tra calciatori, non ti negano, no, un calciatore super macio non può essere gay, anche i super maci possono essere, non è questione di essere femminato o no, i gusti sessuali. E poi c'è anche una lettera di Dino Meneghin, grande e indimenticabile campione di pallacanestro. Alessandro, mi fa piacere tra l'altro che hai messo anche le campionesse come la Navratilova, pensavo guarda avrà parlato di omosessualità come al solito, le donne non ci sono, invece ha dato grande spazio. Ma guarda, è successa una cosa carina e ti ringrazio del tuo favore, con Flavio Pagano, che è il mio coautore, che è un bravissimo storico dello sport, abbiamo detto, visto che ci sono gli europei, visto che ci sono le Olimpiadi, congiunti facciamo questo libro, che è il primo libro di storia dello sport attraverso le storie d'amore dei grandi sportivi di tutti i tempi. E lì ci siamo accorti che, nonostante i silenzi, le omertà, i dinieghi e tutto il resto, è pieno di campionissimi e campionissime che erano segretamente gay o bisessuali o lesbiche o addirittura transessuali per obbligo. Ricordatevi che finché c'è stato il comunismo nell'Europa dell'Est, tante povere creature sono state bombardate di ormoni e di altre sostanze fino al punto di trasformarsi da uomini a donne e da donne a uomini. E questa è una cosa spaventosa che però è stata, come dire, messa a tacere. Allora noi vogliamo ricordare che, come nel resto della vita, per fortuna le opzioni sentimentali, affettive e sessuali sono tante, sono un arcobaleno, e di conseguenza bisogna rispettarle, perché è più facile capire il motivo per cui una campionessa o un campione vince o perde se si capisce se è stato o è stata felice o infelice, certo, a letto o nell'amore. Questa però è una cosa che fino ad oggi era stata tenuta sotto silenzio. Il campione innamorato. Sentiamo Antonio da Genova all'800240024. Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Senta, io avevo dato come oggetto dell'intervento la banca, ma non posso non approfittare della fortuna che di avere al telefono Cicchi Paolo. Una grande fortuna, certo. Grazie, mia. Vorrei provare a condividere una riflessione, perché ho un limite, magari lei riesce a farmelo superare. Le chiedo, dov'è che finisce il diritto di una... di un individuo chiaramente ad amare la persona che più gli garba, e dove inizia invece il diritto di non far supportare a un bambino una situazione che non si è scelto. Questo è un passaggio che io ho difficoltà a superare, quindi una coppia di fatto vuole adottare un bambino, ma il diritto del bambino a non voler subire una situazione che comunque statisticamente lo metterebbe in una situazione di minoranza. Ecco, come si conciliano queste due... Tu, Antonio, ti riferisci a una coppia di fatto comunque sia composta o dello stesso sesso? O dello stesso sesso o di sesso diverso? No, dello stesso sesso, che decide di adottare un bambino. Io mi chiedo, il diritto del bambino di non voler accettare una situazione che è lecita, ma che lui, perché non siamo tutti leoni o tutte gazzelle, c'è chi è forte, c'è chi il bello della vita, come diceva il dottore Paone. È anche un mio programma di una volta, sì. Antonio, sentiamo, è chiaro il tuo interrogativo. Capisco molto bene Antonio, perché siamo poi tutte persone di buon senso, nessuno di noi, almeno certo non io, è un estremista integralista, per cui capisco perfettamente, e io stesso, cambiando la mia vita, che sono cose che uno non sceglie ma che succedono, mi sono posto e mi pongo tuttora questi problemi. Io direi che per fortuna o purtroppo non abbiamo una urgenza in questo senso, in un'Italia dove le due persone che si amano dello stesso sesso o di sesso diverso non possono in alcun modo regolamentare un minimo di diritti e di doveri. Il problema poi dell'adozione è molto molto lontano e abbiamo molto tempo per parlarne e per capirci. Io una soluzione ce l'avrei, che secondo me rispetta la sfaccettatura della vita privata delle persone, ormai comune non soltanto in Italia. Molte persone sono innanzitutto single perché finiscono i matrimoni, perché ne nascono altri, perché ci sono coppie appunto aperte, non regolamentate. La mia idea è quella antica di Davide di Lazzaro, forse ve lo ricorderete, di far adottare i singoli, in modo che ci sia un legame sicuro che dura tutta la vita. Un bambino destinato a un orfanotrofio o a un istituto ha un adulto che si occuperà per sempre di lui, sia dal punto di vista concreto, pratico, sia dal punto di vista affettivo. Poi dobbiamo riconoscere che nel corso della vita questo single potrebbe avere mille diverse situazioni private, potrebbe sposarsi, potrebbe fidanzarsi, sposarsi, potrebbe avere una coppia di fatto etero o omo, però ecco, io vorrei stabilizzare la cosa sulla garanzia per il ragazzino o per la ragazzina di avere sempre un adulto che si occupa di lui al di là di quello che gli succede nella vita, e stiamo imparando che nella vita succedono le cose più inaspettate, come è capitato a me che ho cambiato come dire orientamento sessuale. Karim da Lucca, grazie Antonio, abbiamo tempi stretti. Karim, complimenti per il programma. Complimenti per il programma, grazie, questo è chiaro. Sì, prego Karim. Sì, allora, io la mia notizia di questa settimana sono... Karim, guarda, Karim, scusa, c'è un problema con l'audio. O stai troppo appiccicato con la bocca al telefono o hai qualche apparecchio, qualche... Ora, così? Senza viva voce, senza... Così mi senti? Sì, un po' meglio. Sì, è doppia. Stai facendo la doccia, Karim, che succede? Karim? No, ora mi senti? Sì, proviamo di nuovo, vai, sì. Karim, sono in attesa. Niente, è stato un problema, è arrivato giù una cascata d'acqua, evidentemente Karim non so bene dove fosse. Se riusciamo a recuperarlo all'800 24 00 24, poi parliamo con Karim, con le altre ascoltatrici e ascoltatori, e ancora, poi abbiamo anche, mi raccomando, tra pochissimo, è vero, Paolo Corleoni mi confermi che c'è questo, il nostro, come sempre, unico al mondo collegamento interplanetario, però abbiamo una piccola pausa, ce la prendiamo tra pochissimo. Sempre Roberta Giordano con voi per confrontarci reciprocamente sui fatti della settimana. C'è Alessandro Cecchi Paone oggi come opinionista estemporaneo con il suo libro Il campione innamorato, giochi proibiti dello sport, con storie di donne e uomini omosessuali dello sport, campioni e campionesse, in certi casi anche transessuali, un libro insomma che mancava. Oggi c'è il Gay Pride, dicevamo, nazionale a Bologna. Abbiamo parlato di argomenti anche attinenti. Tra l'altro volevo sapere brevemente da Antonio, che prima aveva fatto questa domanda, ma molto brevemente, Antonio, ti ha convinto Cecchi Paone con la sua spiegazione? Molto brevemente. Mi fa un po' paura il numero 2. Io ricordo un film, About a Boy, non so se ve lo ricordate. Sì, ma chi è il numero 2? Come? Cos'è il numero 2? Il numero 2 è il numero di un insieme composto da due elementi, mi fa un po' paura. Questa bambina diceva: ho paura del 2, mi piace il 3, perché nel 2 si sentiva troppo esposto al rischio di trovarsi da solo in qualsiasi situazione di anche magari... ho capito Antonio, volevo capire insomma se in qualche modo era stato persuasivo, convincente. Sicuramente è una chiave di lettura. Molto bene. Diciamo che è una proposta per superare comprensibilissime preoccupazioni e comprensibilissimi dubbi che io in parte condivido. La battaglia nostra è una battaglia di minima, è una battaglia perché l'Italia non sia l'unico paese al mondo che abbandona una coppia di fatto etero gay senza alcun tipo di diritto, di dovere. Tutto il resto abbiamo tutto il tempo per affrontarlo. Tra poco c'è Roberto da Modena, ma mi dicono, mi conferma anche Gian Gabriel Lombardo ai telefoni bollenti, che abbiamo anche il collegamento con il satellitare, con Marte. Sì, bene. Riflessioni da Marte. Osservando come sempre da quassù, da Marte, la penisola italica, appare piuttosto chiaro che la suddetta, cioè la penisola italica, è il paese delle authority. C'è un authority ogni tot abitanti, qui da Marte, scusate, è un po' difficile fare il conto, ma sono diverse altre appena arrivate in bus o in taxi, appena per esempio quella dei trasporti, per esempio, pare che ce ne sia un progetto anche per contrastare la diffusione degli acari e delle doppie punte, proprio perché sono molto diffuse in Italia, non le doppie punte, ma le authority. In ogni caso, si diceva autorità garanti indipendenti, dunque che tutto questo stia a significare in cospicui casi che è una garanzia, cioè autorità garanti, una garanzia che siano scelte da autorità dai partiti indipendentemente, ecco perché autorità garanti indipendenti, indipendentemente da regole di trasparenza e di meritocrazia. Insomma, talvolta l'esegesi di certe formule, diciamo, un po' più articolata di quanto si pensi. Anche tenendo conto di ciò, balena in mente un'idea rivoluzionaria. Alla ministra Severino, che ipotizzava giorni or sono di utilizzare i detenuti per la ricostruzione in Emilia, verrebbe da suggerire: perché invece non utilizzare i valorosi politici italici, ovvero l'usato sicuro, sovente troppo arroccati ai loro interessi e alle loro poltrone, mentre il paese rischia la fine della nave Concordia, perché si diceva non utilizzarli in modo efficiente affinché la politica made in Italy diventi finalmente e veramente un lavoro socialmente utile?

Giovanardi, ma scusi, ma una cosa sconcia, se una ragazza sta salendo sul treno, l'altra una giù volta si saluta, si chiamava il bon ton, donna Letizia, lo chiamava il bon ton. Roberto, molto brevemente, dà fastidio ai bambini un bacio tra due persone adulte? Ma assolutamente no, è una manifestazione affettiva che anzi fornisce al bambino la matrice per crescere bene. Grazie Roberto. Alessandro Cecchi Paone, molto brevemente, se vuoi commentare, se no andiamo. No, guarda, sono molti anni che rinunzio a incontrare Giovanardi dopo averci litigato per anni, perché in fondo è giusto che l'Italia vecchia di matrice clerico-fascista si possa esprimere. La cosa importante è che non imponga chi clerico-fascista non è le sue manie, le sue fobie e soprattutto le sue leggi. Comunque, qual è il servito per riaprire? Liberale. Per la società riaprire liberale è che ognuno dice quello che vuole, ma nessuno impone agli altri la sua visione di vita, ovviamente io non condivido quella di Giovanardi. Sentiamo Alfonso da Roma, l'800240024. Alfonso. Buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno anche a Cecchipone. Buongiorno, grazie. Conosco poco i suoi libri, però lo ritengo ad essere una persona leale, questo per me è già motivo di stima. Ti consiglio Il Campione Innamorato, che se ti interessa lo so. Il Campione Innamorato, il suo ultimo libro. Sì, no, purtroppo non leggo molto le parole, però lo considero una persona intelligente, una persona molto molto in gamba. E parliamo invece di Rai. Sì. Ecco, niente, io sono di quelli che la Rai l'ha abbandonata da tanto tempo, perché davvero diciamo che non ha più da raccontare questo tipo di televisione. Come è anche inammissibile che ci siano personaggi che sono da 20 anni, 30 anni, che abbiano un loro palinsesto in maniera del tutto consolidata, da Bruno Vespa, Magalli, a Mirabella. Cioè siamo di fronte davvero a un monopolio, nel monopolio di soggetti che hanno fatto della Rai un loro impero. Quindi Alfonso, mi sembra di capire che tu ascolti Non ci sono più le mezze stagioni su Radio 24. Mi sembra un'ottima opzione, un'ottima scelta. Guarda, io faccio il ping pong fra Radio 24 e Radio 3. Sono un po' le mie due stazioni importanti, sia culturali che intellettuali che di informazione. Pensa che io conosco meglio l'Italia attraverso la BBC, la CNN, che attraverso l'Italia stessa. È un interessante punto di vista. Io quando l'Italia come sta, mi rivolgo alle emittenti straniere e so esattamente quello che sta accadendo. Alfonso, dimmi solo una cosa, Alfonso. Hai visto che ha lanciato le primarie, prima sono stati quelli del PD, poi anche il PDL in questa settimana. Tra Bersani e Renzi chi voteresti, in modo secco? Non c'è una terza ipotesi. Una decisione sofferta questa. Comunque senz'altro Renzi, perché a livello anagrafico ha qualcosa in più da dire e ha più chance da mettere in campo. Bersani la sua storia l'ha fatta, ciò che doveva dire l'ha detto. Con tutto il rispetto per l'uomo, credo che ha fatto il suo tempo. Bersani deve tirarsi indietro, fare il consulente ideologico a livello territoriale e lasciare il paese. Consulente ideologico. Grazie Alfonso, potrebbe essere un nuovo ruolo, il consulente ideologico a livello territoriale. Ti leggo brevemente, Alessandro Cecchi Paone, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, un po' c'è stato un primo inizio di primarie, diciamo, tra le ascoltatrici e gli ascoltatori, tra i facebookiani. Chi sceglierebbero tra Bersani e Renzi? Allora Marco dice comunque Bersani, Max scrive anche lui Bersani, Massimo tra i due Bersani, ma non faccio testo, io voterei pure un posacenere se l'altro fosse Renzi. Quindi proprio dice Renzi fa un po' ribrezzo. Roberta dice fanno schifo entrambi senza giri di parole. Gianluca, Renzi o via. Sabrina scrive con ribrezzo Bersani, diciamo, quindi a qualche remora, ma lo voterebbe. Enrica, Renzi con mille i. Claudio sottopone una terza candidatura. Pluto, Mauro dice ma Renzi un po' di tempo fa in un'intervista televisiva aveva detto che preferiva rimanere sindaco e basta, si è già rimangiato tutto, e lo confermo, mi pare di ricordare anche a me che avesse detto una cosa del genere. Poi aggiunge il PD, oltre alle critiche e gli insulti mossi ai vari partiti avversari, non ha saputo proporre soluzioni alternative. Emilio opta per Renzi. Rosanna, dubbio amletico che non riesco a sciogliere, I have a dream, dice, dimenticare tutti i politici, tutti. Giovanni, Matteo Renzi uno dei pochi giovani del PD ad avere la mia simpatia, non il mio voto perché io ho smesso di votare. Infatti lo chiamano il rottamatore, forse per questo che sta antipatico a tanti. Giuseppe dice nessuno dei due. Sergio scrive se proprio non c'è alternativa tra Bersani e Renzi, turandomi il naso direi Renzi. Che dici tu Alessandro Cecchi Paone, per chi avresti più? Poi il fatto di avere meno anni è comunque garanzia di possibilità di cambiare le cose, di fare politica in modo concreto, onesto, eccetera. Che dici? No, in assoluto no. non è una garanzia, però è certo vero che tanti problemi dell'Italia derivano dal fatto che a tutti i livelli, non solo politici, siamo da troppo tempo solo governati da vecchi e uomini. Noi abbiamo bisogno di tanti giovani e donne che magari poi sbagliano, che magari non fanno sempre le cose giuste, ma c'è bisogno proprio di dare un segnale al mondo che il nostro non è un paese di giovanardi, ma è un paese di gente giovane, magari un po' inesperta, ma che deve comunque mettersi alla prova. Quindi in generale la spinta di genere, più donne e meno uomini, siamo la d'accordo. Spinta anagrafica, più giovani e meno vecchi, la dobbiamo comunque fare questa prova, perché altrimenti siamo battuti comunque. Se tu guardi l'età media l'equilibrio di genere degli governi degli altri paesi civili avanzati, noi dobbiamo soltanto che andarci a vergognare, a nascondere. Quindi comunque in generale, non solo nel PD, più giovani e più donne, e poi vediamo cosa fanno. Ecco, poi adesso c'è un'altra pausa per aggiornare chi viaggia. Anche Berlusconi si è lanciato con le primarie, almeno l'ha detto lui Alfano questa settimana, dice però vogliamo fare una squadra di under 45, quindi chi si salverebbe tra, diciamo, i papabili? Mara Carfagna, che ha 36 anni, ex ministra delle pari opportunità, Michela Vittoria Brambilla, 44 anni, per un anno si salva, ex ministra del turismo, Raffaele Fitto, 42 anni, ex ministro degli affari regionali, Giorgia Meloni, 35 anni, ex ministra della gioventù, e Maria Stella Gelmini, 38 anni, ex ministra dell'istruzione. Io ne davo qualcuno di più, adesso non vorrei per carità essere offensiva. A tra poco, 800 24 00 24. Sempre Alessandro Cecchi Paone, opinionista estemporaneo di Oggi, col suo libro Il campione innamorato. Stavo leggendo che Mimum, Clemente Mimum, lancia su Canale 5 il primo TG dedicato agli animali. Non so se questa possa essere una novità televisiva, ma comunque Walter da Torino, riesce a essere molto sintetico, Walter? Scusami. Walter? Pronto? Pronto, Walter? No, e come mai oggi abbiamo questi problemi? Walter, prova a richiamare perché c'è un gran rumore, non si capisce niente. Lisa da Milano. Ciao, sono niente, volevo portare la mia testimonianza. Io sono stata cresciuta da una coppia gay e non ho avuto... Di donne o di uomini, Lisa? Ah. Di donne o di uomini? Uomini. Uomini? Uomini. E la persona referente praticamente è un mio parente stretto che ha a sua volta cambiato vari partner, ma io non ho mai avuto nessunissimo problema. In famiglia aveva praticamente molti amici gay, lesbiche, bisessuali. Io sono stata cresciuta da loro dall'età di 12 anni in poi e mi sono trovata molto bene, anzi questo mi ha permesso di insomma sviluppare una mente molto più aperta di tanti miei coetanei. Lisa, scusa se te lo domando, poi anche non risponde, ma tu sei rimasta orfana a un certo punto o per quale scelta o per quale motivo sei stata? Sì, io sono rimasta orfana dei genitori. Ho capito. E per cui questo parente si è preso cura di te. Di me, però ripeto, devo dire che questo mi ha aiutato molto a crescere in tanti sensi, ecco. Lisa, io comunque non ho avuto nessunissimo problema crescendo con loro, nel senso che io adesso convivo, sono eterosessuale, non ho avuto problemi di identità di genere. Lisa, io ti ringrazio moltissimo per aver avuto voglia di parlare di te, della tua testimonianza. Vorrei avere più tempo, ma siamo proprio un po' ai minimi termini, quindi grazie ancora Lisa e continua con la tua serenità, insomma. Grazie di aver chiamato, Lisa. Grazie. Grazie, ciao. Ciao. Su questo appuntamento cui non possiamo mancare, con il nostro Don Severino da Potenza. Don Severino, che dici di questa settimana? Ciao, buonasera. Buonasera, ciao, a te. Buonasera a tutti. E dico semplicemente questo: c'è stata la kermesse a Milano per quanto riguarda la famiglia. Ecco, io dico questo, che per arrivare alla famiglia ospitata, diciamo, dal Papa, questo può avvenire solamente quando i preti, i vescovi e il Papa smettono di parlare di famiglia, dato che non ce l'hanno. Semplicemente questo. Molto bene, grazie Don Severino. chi se l'aspetta da un prete, insomma, ogni tanto non si veniva un tipo un po' particolare. E vorrei sentire adesso invece l'altro nostro appunto, vorrei sentire la voce della nostra Valeria Della Valle, docente di linguistica alla Sapienza di Roma. Cara Valeria, io ti vorrei sottoporre un termine molto di moda, authority, se vuoi fare, diciamo, un po' di esegesi di questo termine. Valeria, che dici? Sì, subito. Dunque, questo termine, questa parola ha fatto la sua apparizione in Italia nel 1985. Ah. E oramai temo che non ce ne libereremo più. Mai più. Avevamo a disposizione la parola italiana autorità, che andava benissimo, una parola bella, chiara. Fa più trendy però, via authority. Authority. Ecco, certo, fa molto più effetto, ma è stata scelta authority, e che insomma ha molti elementi negativi. Intanto, già come la stiamo pronunciando, sia tu che io la pronunciamo male dal punto di vista della lingua inglese dalla quale proviene. Poi quando si scrive molti non mettono l'H al posto giusto, non mettono la Y finale, quindi alla fine finisce di essere una parola che deve indicare tra l'altro un organismo molto delicato, no? Quello che ha poteri di controllo su determinati settori amministrativi o su servizi pubblici, per esempio l'editoria, la radio, la televisione, eccetera, e per indicarlo usiamo una parola che non sappiamo neanche come pronunciare e che forse non tutti gli italiani capiscono fino in fondo. C'è un segnale positivo però, e lo ha dato ieri il Presidente del Consiglio, Mario Monti, nel discorso di ieri ha usato più volte, e anzi io per quello che ho sentito, gli ho sentito nominare solo la parola autorità. Autorità, molto bene. Che sia un buon segnale e che da authority passiamo ad autorità. Grazie Valeria Della Valle, grazie. E se proprio Monti, che usa tutti questi termini, no, dei finanziari, economici, molto internazionali, dice autorità, tu c'è chi pone che sicuramente Alessandro c'hai una pronuncia impeccabile in inglese, dillo tu come si dice authority. Authority. No, ripetilo. Authority, un po' giustamente. Oh. Senti Alessandro, hai sentito anche l'esperienza di Lisa, hai sentito altre persone, anche Don Severino sulla questione, non so se vuoi rimanere su quella o vuoi dirmi per esempio chi voteresti alle primarie del PDL? Del PDL? Sì. Al PDL senza Berlusconi non esiste e non ha senso, quindi dovendo essere un eventuale elettore del PDL chiederei di poter votare ancora Berlusconi, oppure di prendere atto che quella esperienza si è conclusa con il ritiro di Berlusconi. Non esiste, è un partito senza alcun tipo di struttura e alcun tipo di identità. Anche il PD è parecchio confuso, però almeno ha una tradizione che si può o meno apprezzare, ma è quindi una certa autonomia dai vari leader, ma il PDL senza Berlusconi è inesistente, quindi proprio non si pone il problema. Diciamo che il problema è un altro: io da sempre appartengo all'area repubblicana, radicale e socialista democratica, e dobbiamo capire noi dove ricostruire la nostra presenza per ricordare all'Italia che possiamo essere ancora, forse l'ultima occasione, un paese moderno, un paese avanzato, un paese che punta sulla tecnologia, sulla ricerca scientifica e sulle libertà individuali. Questo nel PD, nel PDL lo dicono, hanno i loro problemi interni di apparati di potere, noi siamo testimoni di questa aspirazione che è di giustizia e di libertà, ma non sappiamo bene a questo punto dove andare. Nel corso degli ultimi anni, Alessandro, perdonami, mancano 22 secondi, volevo chiederti, visto che il titolo del tuo libro è Il campione innamorato, tu sei un campione, diciamo, nella tua professione, sei innamorato anche? Sì, in questa fase sì, diciamo della mia passione civile. Bene, la passione civile, ma spero in qualcos'altro, ma comunque non stiamo lì a ciurlare il manico, a investigare sulle questioni private. Grazie Alessandro Cecchi Paone. A tutti voi. Grazie, potete riascoltare la trasmissione su Radio 24, sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.